siamo sicuramente in un rialzo, ecco, dopo un momento in cui la curva cominciava a decrescere, soprattutto tra gennaio e fino ad una settimana fa, è ricominciata a crescere. Non cresce così velocemente, così come abbiamo visto tra metà di ottobre e il picco che c'è stato tra il 15 e il 20 di novembre, quindi non è una crescita esponenziale, diciamo così, tuttavia siamo di nuovo tra i 550 e i 600 casi, che sono uno dei picchi appunto che avevamo visto a novembre, anche se qui la crescita è molto più lenta di allora, è diversificata come avete visto, perché abbiamo avuto degli episodi particolari a San Benedetto Val di Sambro, dove però insomma credo abbiamo anche fatto un'ottima operazione di cucitura tra le istituzioni, la ASL, la regione, la conferenza che io presiedo e il sindaco di San Benedetto, quel distretto, dove abbiamo messo in atto delle misure molto precise tra tamponatura di massa e vaccinazione, che io credo ci permetteranno di arginare il focolaio. Sempre di più in questa crescita lenta, se rimane lenta e se siamo bravi a tracciare, a vaccinare, a prendere delle misure più mirate per le esigenze del territorio, credo che potremo arginare i diversi focolai, però sicuramente stiamo assistendo a un rialzo. Quindi la ricetta è tracciamenti e vaccini? Assolutamente, abbiamo, come annunciava anche il dottor Bordon stamattina, abbiamo potenziato il Dipartimento di Sanità Pubblica, perché il tracciamento rimane una delle azioni chiave per questo virus, per questa infezione, per questa pandemia. Dovrebbero arrivare ulteriori persone che permetteranno al Dipartimento di provare a tracciare sempre di più, naturalmente, e tracciare significa anche ovviamente arginare e identificare meglio i focolai ed intervenire subito, naturalmente con l'isolamento e con la quarantena. E i vaccini, che naturalmente sono legati alle dosi, ma come ho sempre detto, qui abbiamo una macchina organizzativa dell'ASL davvero molto ben oliata, potente, in grado di fare molto. Siamo partiti bene, insomma, con la vaccinazione per le persone sopra gli 85 anni. Più ci danno dosi, più saremo in grado di farne. Sono state anche consegnate le dosi ai medici di medicina generale di AstraZeneca per fare i vaccini agli insegnanti della scuola, e queste due, assieme al sequenziamento delle eventuali varianti, che però insomma dico subito che non bisogna farsi prendere dall'isterismo su questa cosa dei varianti, cioè esistono, ci sono, ma è nella natura del virus mutare, è mutato fin dall'inizio, probabilmente anche il virus che è arrivato da Wuhan non era più quello di Wuhan quando è arrivato qui in Europa, quindi è nella sua natura mutare, ma tracciare, sequenziare, isolare i casi e vaccinare è la strada maestra per riuscire a ritornare di nuovo alla normalità nel più breve tempo possibile, il che non sarà proprio prestissimo, ma sicuramente è la strada giusta. Oltre ai due comuni che abbiamo citato, ci sono, come dire, altri territori che sono oggetto di attenzione per quello che sta succedendo? Il circondario Imolese ha avuto una crescita, anche a un RT credo che sia attorno all'1,29, qui a Bologna siamo sull'1,20, e San Benedetto sono stati i due episodi su cui ci siamo concentrati per fare questa nuova anche modalità di intervento. Altri territori per adesso non ce ne sono. Si sta assistendo un po' a tutti i livelli, anche nazionale, quindi siamo dentro questa tendenza nazionale ad un innalzamento che va compreso ancora bene, cioè bisognerà capire anche nelle prossime settimane, di positivi all'interno delle classi di età più giovane, cioè per intenderci da 0 a 19. C'è proprio un innalzamento abbastanza deciso negli ultimi, diciamo, 25 giorni rispetto ai dati cumulativi precedenti in queste due fasce d'età, che ovviamente è un po' preoccupante sia per l'impatto che può avere sulle scuole, ma anche perché naturalmente sono tutti ragazzi e ragazze asintomatiche e quindi purtroppo possono far sì che il virus circoli più facilmente. Però per adesso insomma altri territori non ne ho notizie, almeno poi è chiaro che le cose cambiano anche di giorno in giorno, come vedete. Adesso la curva è un po' in rialzo, che significa anche maggiore pressione sugli ospedali, siamo ritornati sulle 700 persone ricoverate, eravamo a 550-560, quindi insomma cominciavamo a intravedere proprio una diminuzione della pressione, anche se sono più in degenza ordinaria, in bassa intensità, piuttosto che nelle terapie intensive. Si sta parlando ad esempio per l'Imolese di misure restrittive del cosiddetta zona arancione scuro, che restrizioni ulteriori ha rispetto a quell'arancione? Io ho fatto questa battuta che in cui ho detto che ci possono essere misure più sartoriali, cioè misure in cui magari chiudi le scuole che non sarebbero chiuse nella zona rossa e tieni aperto magari alcune attività economiche che invece nella zona rossa sarebbero chiuse. Dipende naturalmente da dove vediamo e da dove arriva il contagio, e quindi avere misure più precise per quanto riguarda quello che succede nel territorio. Insomma, l'idea dovrebbe sempre più essere di non fare misure indifferenziate che magari puniscono o mortificano o cose che non c'entrano niente, e cercare sempre di più di avere questa attenzione, che è anche uno sforzo naturalmente per tutta la sanità pubblica, per i sindaci che devono essere in prima linea anche nello spiegare alle persone con i dati che arrivano dalle ASL perché si prendono alcuni provvedimenti rispetto ad altri. Diciamo che rispetto al provvedimento generalizzato, che magari è appunto indifferenziato, questo ha il vantaggio di poter spiegare meglio perché faccio un certo tipo di provvedimento e lo faccio mostrando i dati e comprendendo che cerco di colpire proprio quella zona più circoscritta. Io credo che questo dovrebbe essere, almeno questo è il mio modesto parere, forse anche un atteggiamento nazionale che ci fa uscire, diciamo così, da un tutto indifferenziato che non ha molto ragione di essere, perché l'Italia in questo momento vede la circolazione del virus in maniera molto differente in alcune regioni del nord e del centro, per esempio, rispetto a quelle del sud.